20 e 13 minuti, siamo ritornati in diretta qui su Radio Stonata e voi non ci crederete, sì lo so, è da una vita che manca, ma è tornato Flavio Alagia di nonsoloturisti.it. Ciao Flavio, buonasera e ben ritrovato. Ciao Beppe, buonasera a tutti, grazie, finalmente ce l'abbiamo fatta, hai visto? Ce l'abbiamo fatta e tutto ciò mi rende veramente felice, Flavio. Ma prima di parlare di dove ti trovi attualmente, io direi di raccontarci in breve l'avventura di 7000 miglia lontano e soprattutto da dove sei partito, dove sei arrivato e ora dove sei pure, soprattutto. Allora, ormai finalmente, o purtroppo, come si dice in questi casi, la tappa si è conclusa. 7000 miglia lontano, che è questo progetto nato dalla mente di Piano Radici, fotografo bresciano, che ha creato questa associazione per viaggiare intorno al mondo, creando anche delle connessioni con tante associazioni ONG per raccogliere fondi in loro favore, mi ha coinvolto in questa bellissima avventura. Io ero uno dei guidatori, un driver della sesta tappa. Sono sette tappe che, partendo dall'Italia, hanno fatto tutto quanto il giro del mondo. La sesta tappa, la mia, partiva da Città del Capo in Sudafrica e si concludeva a Malindi, sulla costa del Kenya. Siamo partiti da Città del Capo con un lieve ritardo, perché le macchine dovevano arrivare da Buenos Aires, dal Brasile. Abbiamo aspettato i pazienti, abbiamo fatte, come posso dire, lubrificare, abbiamo messo a posto, perché il viaggio già le avevano un po' segnate, ma siamo riusciti a partire il 23 febbraio da Sudafrica. Siamo arrivati lungo la costa sudafricana fino in Namibia. Da Namibia abbiamo attraversato il deserto delle famosissime dune rosse, siamo passati poi sulla costa dove vivono queste inaspettate comunità di tedeschi, dove parlano ancora in tedesco, si mangia il pino schnitzel e si beve birra nei pub. Poi siamo arrivati nel meraviglioso parco nazionale di Etosha, tra zebre, giraffe, leoni e elefanti. Abbiamo superato il primo confine, siamo arrivati dalla Namibia allo Zambia, terra di grande fascino, di grandi contrasti etnici e sociali. Abbiamo attraversato un po' in fretta, purtroppo, perché dovevamo rincorrere le nostre tempistiche. Siamo arrivati allo Zambia, poi nel bellissimo Malawi, che tutti in Africa chiamano il cuore caldo dell'Africa, perché è una terra estremamente ospitale, con una popolazione molto amichevole, molto cordiale. È una lingua di terra confinante, il cui confine è stato proprio dell'omonimo lago, il lago Malawi. E noi sul lago Malawi ci siamo appostati per schiacciare un pisolino sulle sue spiagge, a Nkata Bay, a metà ad altezza del lago, che si dispone in verticale sul territorio dell'Africa. E da lì siamo poi ripartiti per arrivare dal Malawi in Tanzania. In Tanzania ci siamo dati a corse frenetiche, un territorio vastissimo, molto anche impegnativo dal punto di vista stradale, perché lasciateci ormai alle spalle gli sterrati avventurosi, ma comunque abbastanza agevoli della Namibia, o le strade molto pacifiche del Malawi e del Sudafrica. In Zambia proprio abbiamo fatto i conti con buche, con contrasti molto, anche abbastanza pericolosi, e con l'infallibile autovelox della polizia, che non so quale compagnia gli ha improvvisamente fornito di questi macchinari maledetti. Ci hanno fermato tipo 5 o 6 volte durante la nostra tratta. Non so se avete visto le foto su Facebook. Ebbene sì, ho preso una multa anch'io, quindi mettetemela via. Anche in Africa ormai si prendono le multe per eccesso di velocità. Insomma, in un modo o nell'altro siamo arrivati dalla Tanzania fino su al parco del Sadane, un'altra area, una riserva naturale piena di fauna molto affascinante e poco conosciuta, purtroppo, sebbene sia molto variegata e molto eterogenea. Si trova al confine verso nord, verso il Kenya. E infatti, dopo una sosta nel Sadan, abbiamo attraversato il Kenya e siamo arrivati nelle Chulu Hills, le colline Chulu. Le colline Chulu hanno la particolare caratteristica di ospitare una riserva di proprietà diretta del popolo Masai. I Masai sono una delle tribù ancestrali dell'Africa, molto famose, molto, molto rispettate anche tra le varie tribù locali. come tutte le tribù purtroppo africane sono state pesantemente maltrattate e confinate, ghettizzate dall'uomo bianco durante l'epoca della colonizzazione, durante le fasi di indipendenza dei vari stati africani hanno ottenuto una forma di risarcimento che non definirei adeguato, ma insomma le ha consentito di mantenere nel loro controllo alcuni territori. Uno di questi territori è all'interno delle Chulu Hills, delle colline Chulu, che è proprio direi all'ombra del Kilimanjaro. Uh-huh. Quindi è un territorio estremamente affascinante che permette sempre di avere il complesso del Kilimanjaro, che si compone di due cime sempre sotto gli occhi. E poi al suo interno ovviamente c'è una ricchissima fauna di soprattutto elefanti, giraffe, zebre. Noi abbiamo avuto anche la fortuna, credo che si dica così, ma di sentire leoni, perché praticamente erano appostati dietro le nostre tende mentre nella notte dormivamo. Quindi non so se sia esattamente stata una fortuna o una sfortuna, ma mi hanno assicurato che non erano molto interessati alla nostra carne quanto piuttosto alle riserve di acqua che erano lì intorno al campo. Comunque è un'esperienza veramente indimenticabile anche questa. Flavio, scusa, delle faune, siamo arrivati a Malindi dove abbiamo consegnato le macchine all'ultimo video. Scusa un attimo Flavio, ci andiamo ad ascoltare un brano e poi ritorniamo subito, perché io voglio sapere com'è andata invece a Malindi, perché proprio mi interessa Malindi e poi ho una curiosità pure su una giraffa, però ne parliamo tra poco. Va bene. Love Me Like You Do qui su Radio Stonata, Ellie Goulding. Le abbiamo detto di tutto su questa canzone, colonna sonora dell'omonimo film 50 sfumature di grigio, dell'omonimo libro pure 50 sfumature di grigio. Ma siamo in collegamento con il nostro Flavio Ladio di nonsoloturisti.it, che tra poco ci svelerà da quale posto del mondo si trova, ma voi forse l'avete intuito pure dalla buona audio che abbiamo con Flavio. Ma siamo arrivati a Malindi, vero Flavio? Siamo arrivati finalmente a Malindi dopo circa 45 giorni di navigazione con questo team di giornalisti, fotografi, videomaker di 7.000 anni lontano, dove ci aspettava il settimo e ultimo team di questo incredibile viaggio intorno al mondo. Abbiamo loro consegnato le macchine un po' ammaccate, un po' vissute, ma ancora funzionanti. Uh-huh. Speriamo che con buona pace riescano a portarle fino in Italia. Ma a Malindi si parla ancora italiano? A Malindi si parla un sacco italiano. Ma come mai, Flavio? Malindi, come evidentemente sai, visto che non l'hai chiesto, è questa piccola colonia estiva tutto l'anno di italiani in fuga dall'Europa, che hanno creato tutto. Sono ancora gli artefici dell'economia turistica locale, quindi ristoranti, alberghi, resort, bar, tutto italiano. Uh-huh. Si mangia italiano, si parla italiano, i geniani stessi della città ormai parlano tutti quanti italiano, anche perché sono abituati ad agganciare i turisti italiani, e purtroppo però non è più il paradiso tropicale di una volta. Nel corso degli anni, a partire soprattutto da 10 anni a questa parte, direi la popolarità, la fama di Malindi ha subito di due colpi relativi anche soprattutto alla sicurezza civica, all'aumento della criminalità locale. Uh-huh. Ed alcuni piccoli incidenti che hanno visto vittime sfortunate anche alcuni italiani. Uh-huh. In realtà io devo dire, a Malindi non ho avuto, lo dico spesso, però devo dirlo anche stavolta, nessun problema. La comunità locale si è rivelata molto ospitale, molto accogliente, ed è secondo me una città molto più affascinante di quello che non sarebbe se fosse questo paradiso di italiani di cui prima, nel senso che nei suoi vicoli un po' degradati, nei suoi palazzi un po' fatiscenti, anche in questi resort che hanno sempre questa idea di essere continuamente dei lavori in corso, nel senso che ogni tanto arriva qualcuno, ci butta dentro di soldi, poi si stanco o si immoralizza e lo lascia lì, insomma c'hanno sempre questa sorta di aspetto che in fase di costruzione. E io ho trovato molto più affascinante così che non se fosse una specie di Hurghada o Sharm el Sheikh o altre località del Mar Rosso buttate lì, piene di alberghi all'inclusive pronti ad accogliere i turisti. Ti piace? A me Malindi, cioè, non riesco a dire mi è piaciuta, cioè non è bellissima, solleva delle sensazioni contrastanti, però mi ha fatto piacere, mi ha intrigato, e anzi temo, spero che ci tornerò molto presto, perché ho anche conosciuto delle situazioni interessanti che mi hanno molto affascinato. Cioè, c'è un mix anche di arte, di culture, di incontri, di conversazioni molto, molto interessanti che Malindi offre e che poche altre città africane possono offrire allo stesso modo. Flavio, ma oltre a Malindi, no? Un'altra cosa in sospesa è questo enorme leone sotto le falde del Kilimangiaro che hai fotografato. Non era un leone? il grandissimo Perbellini, fotografo di eccezione di 7 miglia ma lontano, non ha mancato mai di scoprirsi le sue prodezze anche gilliche. Ve lo ricordate, forse se avete visto le nostre fotografie, sì, uscendo dal finestrino per fotografare il tramonto dietro la macchina, oppure come in quella scena lì, era buttato fuori dalla jeep della fuoristrada che ci portava lungo le Chilu Hills, uh-huh, per andare a cercare la giraffa che emergeva, insomma, ci siamo divertiti anche in quei casi lì. Leoni, ripeto, soltanto la notte quando girano dietro la mia tenda, però c'erano, a quanto pare c'erano, quindi va bene anche così. Flavio, lasciamo gli amici di 7000 miglia lontano, ma li ritroveremo immagino a maggio nell'arrivo a Milano all'Expo, ma andiamo invece a un'altra avventura che ti vede protagonista, perché possiamo svelare il segreto. Dove ti trovi in questo momento, Flavio? Allora, finalmente sono arrivato in Italia, mi sono atterrato a Roma stamattina, ho preso subito un treno, adesso mi trovo a Pescara. A Pescara ho raggiunto il mio amico fotografo Mario Fracasso, che oltre ad essere un abile fotografo è anche il fondatore, uno dei fondatori di Direzione Italia, un sito che promuove e veicola le bellezze paesaggistiche e culturali del nostro bel paese. E insieme domani mattina partiremo alla volta della Calabria, dove ci aspetta la bellissima Civita, in provincia di Cosenza. Civita è un borgo non molto conosciuto, ma assolutamente splendido, rivolto sulle gole del Raganello, un torrente che ha scavato delle gole profonde molto, molto affascinanti in questi canyon in escursionismo, ma è anche una delle gemme culturali italiane, perché è una cittadina Ardrèche, cioè è una di quelle comunità italo-albanesi nate intorno al 1300, perché al comandante Skanderberg, che veniva dall'Albania qua in Italia con le sue truppe mercenarie per difendere le coste italiane dai saraceni, era stato il concetto di colonizzare, di abitare alcuni borghi sottopopolati del regno dell'Italia meridionale. E Civita in questo modo conserva la cultura albanese attraverso la lingua, che è un dialetto albanese, il dialetto stesso è un albanese del 300, attraverso i riti religiosi che sono ortodossi, e attraverso tutta una serie di tradizioni di costumi, come ad esempio le vaglie, che andremo a scoprire e a documentare in questi giorni, che sono delle danze, dei canti in costume assolutamente spettacolari. E naturalmente ci butteremo anche sulla cucina e sulle prelibatezze enogastronomiche della Calabria in generale in questi giorni, perché lavorare va bene, però a pancia piena si fa anche un po' meglio. Dopo quello che hai patito nell'attraversare il Sudafrica, va benissimo anche rinfocillarsi giù in Calabria. No, non posso lamentarmi, abbiamo mangiato come maiali anche in Africa, purtroppo. uno non dovrebbe ammetterlo, perché lo fa mai bello, ma insomma siamo riusciti a dimostrarci estremamente italiani a tavola persino in Africa, quindi casomai te lo domandassi, non sono dimagrito neanche di mezzo grammo. Ah, va bene, quindi Flavio, da giovedì ci sentiamo da Civita in provincia di Cosenza, sulle cime del Pollino, bellissimo territorio calabrese, e la connessione ci aiuta, perché sai, insomma, io in realtà arrivando in Calabria, lo dico da mezzo calabrese, non è che l'ho lasciato completamente l'Africa, la Calabria non è Europa, non è Italia, siamo lì a metà via, insomma. E quindi anche sulle infrastrutture speriamo di ottenere il consenso dei mezzi a nostra disposizione. Sentiremo. Quando arrivi, cerca l'assessorato al turismo e gli dici: noi ci dobbiamo collegare con Radio Stonata e quindi ci dovete fornire una connessione. Come no, stanno già piantando un paio di antenne lì sul Pollino ora che parliamo. Le ho visitate nel mio arrivo, due paletti, due antenne. Hai visto? Problema risolto. Grazie Flavio e buon viaggio, quindi. Grazie Beppe e a presto. Ok, ci sentiamo presto Flavio, ciao ciao. Buona serata a tutti, ciao.